快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。送生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏斯泰方诺演唱的威尔第、普契尼、多尼采蒂、马斯内、博伊托等人的歌剧作品。 Thank you. santi, la bella vergine, una madoni. E al sordo orecchio, un tremulo vegliare da invano chiede a pane e in ben stende alla mano. Partai degli abituri l'uscio, un uomo Dio scagliava e contro gli uomini le lacrime dei figli. In cotanta miseria la patrizia prole che fa? L'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà, ond'io guardato a voi, siccome a un angelo, e dissi, ecco la bellezza della sfiorava l'arena. Entrava ella fragrante. Mi cadea fra le braccia. No!

istante i palpiti del suo bel cuore sentir. Thank you. carcere nacqui, m'educava il deserto, sol vivo perché ignota e mia regale stirpe, i miei parenti sognarono nel trono. Thank you.

感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏帕瓦罗蒂演唱的著名歌剧咏叹调。 Yeah. Pourquoi faut-il

spazio guardai profondo, e ai prati colmi di viole, pioveva loro il sole e folgorava loro il mondo, pare alla terra un immane tesoro. Giovinetta

我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照。